Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Stasera parliamo di centrali a biomassa per la produzione di energia elettrica e di calore. Si tratta di un segmento che può indubbiamente incidere sul fabbisogno elettrico italiano e parallelamente, diciamo, costituire una sorta di integrazione al reddito di molte realtà agricole che, come sappiamo, si trovano ad affrontare e spesso con difficoltà la concorrenza dei prodotti provenienti dall'estero. Ne parliamo con la professoressa Cinzia Buratti del Centro di Ricerca sulle Biomasse dell'Università di Perugia. Buonasera Buratti. Buonasera, buonasera. Dunque, parliamo di centrali termoelettriche, quindi appunto che producono energia a partire da calore di combustione alimentate a biomassa. Sì. Che cosa si intende? Che tipo di biomassa? Quali sono i combustibili? Dunque, diciamo biomassa, c'è una definizione ai sensi di un decreto legislativo, il 387 del 2003, è definita letteralmente parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, silvicoltura e industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Quindi diciamo questa è la definizione giuridica attualmente adottata e comprende ovviamente tutte le biomasse di origine vegetale, delle quali noi nel nostro centro particolarmente ci occupiamo, che possono derivare sia da short rotation forestry, quindi da colture appositamente coltivate per la produzione di energia, oppure anche da scarti di lavorazioni agricole che producano appunto legno. Ecco, diciamo quelle... short rotation forestry letteralmente vuol dire proprio foresta a rotazione rapida, che vuol dire si coltiva una piccola foresta ma la si taglia abbastanza spesso. A rotazione breve, nel senso che vengono piantumate, per esempio il pioppo, che è una tipica coltura che viene utilizzata a questi fini, viene piantumato e poi dopo già i primi 2-3 anni incomincia la ceduazione. La raccolta. Per cui ad intervalli di 2-3 anni, anche 5 anni, dipende dai cantieri di raccolta, e fino ad un sfruttamento che al massimo arriva intorno a 15-20 anni. D'accordo. Dopodiché l'impianto viene dismesso per permettere al terreno di poi riacquistare, no, le sostanze necessarie. Ospitando specie diverse. Ecco, senta, ma questo vuol dire che per forza bisogna avere delle colture dedicate? I contesti, mi interessa capire quali sono i contesti agricoli nei quali questo tipo di impianti potrebbe sorgere, per esempio. Dunque, guardi, colture dedicate non sono solo il pioppo. Il pioppo è il tipico esempio, come anche la robinia, che si fa per le colture cosiddette poliennali, ma ci sono anche colture erbacee, per esempio annuali, che quindi possono essere alternate anche alle altre colture a destinazione alimentare. Parliamo per esempio anche di sorgo, di canna, di miscanto e così via. Tipicamente invece, pensando agli impianti, di che dimensioni sono? Qual è la dimensione tipo? Tenga conto che già la normativa fa una distinzione fondamentale relativamente alle incentivazioni rispetto a impianti di potenza superiore o inferiore a un megawatt elettrico. Per quelle superiori a un megawatt elettrico vige soltanto il modello di incentivazione dei certificati verdi, per cui appunto il certificato viene contrattato sul mercato dal produttore e a quello poi aggiunge ovviamente il costo di vendita dell'energia elettrica. Certo. Su impianti invece più piccoli, quindi di dimensioni inferiori al megawatt elettrico, il produttore può scegliere tra la tariffa omnicomprensiva o il certificato verde. La tariffa omnicomprensiva è di 0,28 euro per kilowattora prodotto. E di solito questa è la scelta più conveniente. Scelta più conveniente perché evita di dover impiegare del tempo per fare questa attività, perché questi impianti piccoli di potenza inferiore a un megawatt sono piuttosto compatti, ormai consolidati come tecnologia, e quindi per la conduzione richiedono un numero anche piccolo di persone. Per esempio, un impianto da circa un megawatt elettrico consuma circa 20.000 tonnellate l'anno, se parliamo di cippato derivante da legno. Mi scusi, qual è il raggio di approvvigionamento di un quantitativo di questo genere? Ma diciamo che è abbastanza ampio. Perché è critico questo parametro. Però è difficile comunque reperire anche in un raggio di questo genere questo quantitativo, quindi forse bisogna stare su taglie più piccole del megawatt, dei 500, 600, 700 kilowatt al massimo, ecco. Le chiedo, mi deve rispondere molto velocemente, quali sono i tempi di rientro tipici, anche se qui tanti parametri giocano, compresa appunto la gestione dell'approvvigionamento, per impianti sotto il megawatt, mi sembra di aver capito che è il dato più interessante, e se voi come centro di ricerca sulle biomasse avete fatto uno studio di qual è il potenziale in Italia di questo tipo di applicazioni. Dunque, guardi, due numeri però le chiedo. Riguarda i tempi di ritorno, su una centrale da un megawatt siamo sui 6-7 anni, possiamo arrivare anche a 5, è ovvio che in base alle situazioni specifiche bisogna poi contattare un esperto che possa dare uno studio più preciso, però questo è l'ordine di grandezza. Sotto il megawatt, siccome non è perfettamente scalabile il tutto, i tempi di ritorno sono sui 7-8 anni, ecco, più o meno come ordine di grandezza. Potenziale nazionale sul fabbisogno, diciamo, di energia primaria? Sarebbe molto variabile, quindi le direi un qualcosa che di fatto non, cioè dipende poi da quanto. Sì, sì, ho capito, un numero che non avrebbe senso, non circostanziato. Non è un dato tecnico, non è perlomeno solo un dato tecnico. Va bene, grazie professoressa Buratti. Grazie a lei, buonasera. Bene, per questa sera è tutto, Mr. Kilowatt torna domani, parleremo di geotermico a bassa entalpia, insomma geotermico per il riscaldamento e in particolare di un caso, il caso di Roma Olimpiche. A domani!